9 in punto, la versione di Oscar. Ecco, tornati in studio con Oscar Giannino. Pochi cenni per introdurre la questione afghana, che oggi è un po' scomparsa dai quotidiani italiani dopo che nei giorni scorsi, ieri, il giorno precedente, molto spazio aveva occupato in relazione alle polemiche, tra l'altro, sulla necessità di modificare nuovamente le regole di ingaggio, l'utilizzo dei mezzi militari anche del contingente italiano impegnato in Afghanistan, l'eventualità di modificare o meno le norme anche penali che sotto la cui disciplina avviene il nostro intervento. Si parlava della necessità eventuale di passare dal codice penale di pace, che è quello che presiede a questo tipo di missioni, in formale e sostanziale omaggio all'articolo 11 della Costituzione, a norme diverse. E il ministro degli esteri Frattini ieri, in un'intervista sul Corriere della Sera, ha detto fuori dai denti: è inutile usare parole diverse dalla realtà, in Afghanistan non è una missione di pace, in Afghanistan c'è la guerra e noi siamo impegnati insieme ai nostri alleati della NATO a un obiettivo che è un obiettivo politico di stabilità, di sicurezza, ma che avviene attraverso l'impegno crescente anche militare di fronte alla pressione crescente dei talebani. Allora, come stanno le cose in vista delle elezioni presidenziali del 20 di agosto? E la domanda che ci porremo con i nostri ospiti è: la presenza militare americana e alleata è stata in forte crescita quest'anno. Purtroppo siamo reduci da un mese di luglio e di agosto che ha avuto le vette di caduti, di perdite anche militari, oltre 70 quelli americani. Perché? Perché la strategia americana in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi, è significativamente cambiata, e con il nuovo comandante Stanley McChrystal stiamo assistendo a qualcosa di analogo ai primi tempi in cui il generale Petraeus cambiò la strategia che poi si è dimostrata di successo in Iraq 2 anni e mezzo fa. Cioè, si tratta di avere una presenza dei contingenti militari più diffusa nei centri abitati. Significa non solo intervenire dal cielo per colpire le bande talebane, ma assicurare porzioni crescenti del territorio afghano a condizioni di sicurezza. Questo significa esporsi di più, essere più colpiti, anche pagare un tributo maggiore, ma significa voler dare più sicurezza agli afghani, non solo in vista delle elezioni, ma anche in vista delle elezioni. E a queste elezioni il candidato uscente, cioè il presidente uscente, il presidente Karzai, ha uno sfidante che è cresciuto nei sondaggi, Abdullah, che è di tagico, cioè viene dal nord, a differenza di Karzai che è un pashtun. Tutti i problemi maggiori, vedremo approfondendo quei problemi afghani, vengono dai pashtun, cioè nel sud e nell'est, perché è l'etnia prevalente non solo, ma è quella in cui anche la presa dei talebani e delle affiliazioni con Al-Qaeda è più forte. Quindi un'eventuale vittoria di Abdullah tagico dal nord sarebbe ancora più instabile ai fini della coesione etnica di questo difficile paese. Questa e molte altre questioni insieme ai nostri ospiti, che adesso io vi presento, ringraziandoli naturalmente di essere con noi, disposti a rispondere alle vostre domande. Abbiamo innanzitutto Andrea Nativi, il direttore della rivista Italiana Difesa. Buongiorno Nativi. Buongiorno, buongiorno. E poi Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che tutti conoscono, i lettori del Sole e non solo del Sole, per come riesce a unire i percorsi di lettura politica, etnico, di sicurezza, anche con una penna un po' letteraria caduta alla linea di questo minuto. Ce lo avremo presto tra noi. Cominciamo con Nativi e iniziamo a parlare non tanto del contingente italiano, lì ci arriveremo, ma di come in questi ultimi mesi, dall'inizio di quest'anno in previsione delle elezioni, è cambiato l'impegno militare alleato in Afghanistan. Dal suo punto di vista, innanzitutto, è una strategia che sta cogliendo dei successi, oppure bisogna essere un po' critici, perché il maggior numero di caduti, quello che colpisce di più le opinioni pubbliche occidentali, significa che ci sono insuccessi e passi falsi più che successi. Iniziamo da questo, perché spesso i giornali poi si occupano di queste vicende solo, come anche legittimo, quando ci sono dei caduti, delle vittime e nascono le polemiche. Però naturalmente caduti significa anche che si sta cambiando la presenza, e magari è un indice di operazioni che riescono a cogliere più il cuore del problema. Lei che dice? Ma io dico che non sta andando così male come viene raccontata dai media, nel senso che è ovvio che se uno se ne sta nel suo distretto, nella sua fortezza, le rogne non le va a cercare, e quindi ha un numero di perdite inferiore. Invece adesso la NATO e le forze statunitensi e le forze afghane stanno cercando di conquistare il territorio, cosa che in molti casi non hanno mai potuto fare perché non ne avevano semplicemente la consistenza. E i talebani ovviamente non sono molto d'accordo. Quindi abbiamo più soldati, andiamo in posti dove non siamo mai andati, cerchiamo di buttare fuori i talebani, è normale che aumentino le perdite, peraltro aumentano anche quelle dei talebani, perché non è che aumentano le nostre e le loro diminuiscono o rimangono costanti. Questo in genere è un altro elemento che viene perso. Si è partiti tra l'altro in questo sforzo, direi veramente dalla fine dell'anno scorso, sapendo che agosto sarebbe stato non solo meteorologicamente caldo, e già luglio lo ha dimostrato. Le cose funzionano abbastanza, considerando che le forze sul campo sono largamente insufficienti, lo sanno tutti, e quindi si fa di necessità virtù. Con le forze a disposizione si cerca di cambiare passo, di cambiare registro. Quindi mentre prima si facevano anche principalmente operazioni mordi e fuggi, quindi vai a cercare i talebani, cerchi di eliminarli, poi però ti ritiri perché non puoi mantenere una guarnigione, a questo punto anche a Helmand cominciamo a vedere fortini, postazioni a protezione dei villaggi, ecco, questo è l'altro cambio, coinvolgimento diretto con i locali, i maggiorenti locali, riduzione della violenza, ma non della quantità degli attacchi aerei. Anche qui dati recentissimi ci dicono per esempio che a luglio, rispetto a luglio 2008, le operazioni aeree sono aumentate del 40%, eppure abbiamo letto la NATO ferma gli attacchi aerei. Non è che li ferma, li aumenta, ma cambia il tipo di attacchi aerei che fanno, sono più mirati, si usano armi diciamo meno clamorose, ma ottengono lo stesso risultato. Quindi tutto sommato lo scenario è contrassegnato da un trend positivo, bisogna avere diciamo la costanza, la forza politica più che militare per continuare, cioè non deve essere una surge limitata al periodo elettorale, poi dopo si deve continuare. Gli americani sono sicuramente su questa direzione. Mi ha colpito molto che il segretario generale della NATO, appena entrato in carica la prima settimana, Rasmussen, appena entrato in carica, è andato a incontrare Karzai e ha usato parole nette per essere, insomma, un segretario generale della NATO dovete sempre tenere conto politicamente anche ovviamente della condizione dei governi, membri dell'alleanza, della loro opinione pubblica, e ha detto Rasmussen: rimarremo qui finché sarà necessario. E proprio l'altro ieri il capo di Stato Maggiore entrante britannico, Sir Denis Richard, ha detto: disposti, i britannici, che pure hanno molte perdite, moltissime polemiche in patria in vista delle elezioni politiche tra pochi mesi, il capo di Stato Maggiore entrante britannico ha detto: disposti a restare qui anche 40 anni se sarà necessario. Tra, ecco, la rudezza dei militari che chiedono più uomini ai propri governi e ai governi dei paesi alleati, e naturalmente la necessità dei politici di essere più levigati, in realtà dal punto di vista del giudizio tecnico delle operazioni militari, noi dovremmo, come italiani, secondo lei, nativi, fare di più o no? Cioè, avremmo bisogno di artiglieria, tanto per essere fuori dai denti, di mandare qualche smovente d'artiglieria, avremmo bisogno di impegnare più supporto aereo, non solo per i nostri, se impegnati, ma per tutta la coalizione, oppure no? Perché gli americani, insomma, hanno impegnato molti uomini in più e lamentano che gli altri contingenti della NATO non abbastanza in più. Noi, per essere proprio franchi e diretti, dovremmo a nostra volta cambiare passo e in qualità e in quantità, e possibilmente non farlo in risposta, cioè in passivi una volta che ci sono state sciagure, incidenti e perdite, ma farlo in maniera ragionata considerando qual è lo scenario che si sta delineando in Afghanistan. Noi purtroppo su questo siamo ancora molto molto emotivi. Cosa si dovrebbe fare? Una cosa l'ha detta lei, cioè abbiamo dei moventi d'artiglieria che si chiamano PZH-2000 che andrebbero perfettamente per fare cosa? Per fare per esempio la scorta convogli. Come si fa? Non è che bisogna inventare nulla, gli olandesi l'hanno fatto con successo per un anno con i moventi uguali ai nostri, i nostri invece sono in Italia. Come si fa? Se ne mette uno ogni 30 km su un cucuzzolo e praticamente avendo una gittata di 70 km questi ti coprono il convoglio. Se c'è qualche guaio, chi a terra chiama il sostegno dell'artiglieria, dà le coordinate con precisione e nel giro di minuti arriva il fuoco, perché Al momento i nostri hanno come calibro più grosso al seguito quello, la mitragliera dei Dardo, in futuro dei Freccia, 25 mm, ma non possiamo mandare delle blindo Centauro, gli diamo il 105, perché è meglio prevenire che poi dopo piangere dopo. Magari non li useremo mai, io invece temo che li useremo subito se li avremo. Lo stesso discorso per gli elicotteri, ne abbiamo 6, sono utilissimi, formidabili, impiegati al massimo. Guardi, in un giorno è capitato che i nostri Mangusta hanno sparato 4.000 colpi da 20 mm, per darle un'idea. Ma sono 6. E quanto è grossa l'area di nostra competenza? È grosso quasi come il Nord Italia. Allora, perché abbiamo i cacciabombardieri e stanno in Italia? Mandiamoli dove servono e non per andare a fare gli attacchi con i cannoncini, come ho sentito dire, che è un po' sempre il solito concetto italico, cioè facciamo la guerra ma solo un pochettino, che è insomma il solito concetto come una donna incinta ma solo un pochettino. Non si può, la guerra è in corso, lo sanno tutti, tra l'altro è tutta una particolarità italiana quella di missioni pace, missioni di qui, pace, non guerra. No, il segretario della NATO uscente l'ha detto chiaramente, non è mai stata e non è mai sarà una missione di peacekeeping e peace enforcing, ergo tradotto è guerra. Basta andarsi a leggere il mandato, peraltro, di ISAF, che è ben chiaro. Allora prendiamone atto e prendiamo le misure, però dire che useremo dei cacciabombardieri da 50 e fischi a milioni di euro per andare a fare il mitragliamento a bassa quota, perché usarli nel modo corretto, ovvero sia lanciando bombe o missili di precisione, per carità, ecco, questo noi non riusciamo a compiere, posto che è una scelta che ovviamente andrebbe demandata non al Parlamento, ma ai comandanti tattici, lo sapranno loro se in quella circostanza per aiutare i nostri soldati c'è bisogno di scendere a mitragliare oppure lanciare una bomba o lanciare un missile. Ma cosa vogliamo fare, il micromanagement da Roma? Ecco, io ho voluto intenzionalmente cominciare questa trasmissione con un'ampia parte dedicata all'analisi tattica sul campo, strategica, militare, parlando in termini espliciti, dicendo pane, pane, vino al vino, lì c'è una guerra. L'ho fatto sapendo perfettamente che in questa maniera avrei irritato, e mi scuso di questo, però è un'intenzionalità dichiarata, la sensibilità di molti che hanno cominciato, lo vedo dagli sms e lo vedo dalle prime telefonate a cui adesso passerò la linea, in cui si dice: ah, ma qui si fa di tutto per fare la guerra, allora? Ma come, la Costituzione, l'articolo 11? La mia modesta opinione, se uno fa informazione e non ha gli occhiali di dover pensare o a tutelare il governo in carica, e allora bisogna dire che non è la guerra, per tutelare magari meglio il governo in carica ed evitare che ci sia la reazione dell'opinione pubblica, oppure se la pensa in un altro modo di oppositore del governo in carica in Italia, allora deve dire fanno la guerra. No, io faccio il mio mestiere mi impone di dirvi che lì c'è un conflitto vero, che se ci si impegna in un conflitto vero, con regole d'ingaggio da conflitto vero, che si dica, allora tanto vale esserci se lo si è con un paese che è una democrazia avanzata, che quindi si impegna in coerenza alle proprie regole, tanto vale esserci in coerenza alla realtà di quel conflitto e quindi con regole adeguate a esserci in sicurezza per noi e per dare sicurezza agli altri, cioè per vincere, altrimenti serietà imporrebbe di fare un'altra cosa. Questa è la mia modesta opinione, ve la dico con una certa esplicita durezza, perché so che ci saranno polemiche nel resto della trasmissione con voi. Ora spostiamoci all'altro aspetto, quello politico-strategico, e l'evoluzione del problema con i talebani, col Pakistan vicino, problema delicatissimo nell'area, la linea ad Alberto Negri, che abbiamo un po' trascurato. Alberto, dal tuo punto di vista, come si è arrivati a questi ultimi mesi di presidenza Karzai rispetto alle speranze del 2004? Certo, la realtà è molto diversa. Adesso stiamo di nuovo parlando di uno scenario di guerra abbastanza molto impegnativo, sempre più pesante. In realtà c'è il 40% del paese, che lo dice le fonti ufficiali stesse del governo, cioè 40 distretti su 356, che non sono nelle mani di nessun tipo di autorità e quindi sono in buona sostanza considerate, non dico perse, ma più controllate dai talebani e dai signori della guerra che da altri. Dal tuo punto di vista, qual è il bilancio da tirare di questa strategia? Si è perso tempo e ci si è voluti illudere fino a un anno e mezzo fa, quando si è ripreso purtroppo a menare le mani? Oppure si è semplicemente sbagliato strategia per anni? Beh, che ci sia perso tempo, questo mi sembra molto evidente, no? Si fanno oggi le cose che bisognava fare 3-4 anni fa. o 5 anni fa. In Afghanistan si è perso tempo sin dall'inizio, sin nel 2001. Quando ci fu l'attacco americano, l'attacco aereo americano sul terreno, gli Stati Uniti non avevano più di 150 uomini. L'offensiva di terra fu condotta da questi consiglieri militari che appunto guidavano le truppe dell'Alleanza del Nord. Successivamente, quando è caduta Kabul e c'era da andare a snidare Al-Qaeda tra le montagne di Tora Bora, io ero lì, che cosa successe? Successe che per un mese e mezzo si bombardò dall'alto senza che nessuno mettesse mai il piede a terra. Poi ci fu l'assedio di Kunduz. Kunduz è una città del nord da cui furono evacuati qualcosa come 5-6 mila combattenti tra talebani, Al-Qaeda e una sorta di legione straniera che affiancava Kabul allora. Ebbene, questo è avvenuto anche con la complicità del Pakistan e sotto gli occhi della comunità occidentale e degli Stati Uniti. E dopodiché si è pensato che l'accelerazione della guerriglia fosse finita, e invece ci siamo accorti con molto anticipo e non oggi che questo non era così, anche perché il problema pakistano-afghano è strettamente connesso. I confini sono dei vasi comunicanti, sono 1400 chilometri assolutamente incontrollabili, non da oggi ma da circa qualche secolo, e quindi era molto difficile che non si verificasse una situazione come quella a cui noi stiamo assistendo oggi, soprattutto perché per alcuni anni non si è fatto nulla di quello che si doveva fare. Oggi forse si fanno le cose giuste, ma con un forte ritardo. Abbiamo collegato con noi il sottosegretario di Estero Alfredo Mantica. Buongiorno Mantica. Buongiorno. Lei le chiederemo una specie di riflessione invece sul tema su cui è intervenuto il ministro anche ieri. Bisogna cambiarle le regole che presiedono alla missione italiana, secondo lei? Io credo di dover condividere l'opinione del ministro La Russa, ma credo che sia anche un problema non applicabile solo all'Afghanistan. Noi abbiamo uomini da molte parti, in Kosovo, in Bosnia Erzegovina, in Libano, in Afghanistan, e voglio dire, vivono una condizione particolare, perché sono tutte missioni sotto egida internazionale, ONU, NATO, hanno l'obiettivo di portare la pace o di rafforzare la pace, però ci si rende conto come in questo momento in Afghanistan che per portare la pace bisogna usare anche le armi della guerra, e ci si trova in una condizione, quella dei codici che si devono applicare, codici militari di pace, codici militari di guerra, che non corrispondono assolutamente alla situazione che c'è sul terreno. Quindi credo che sia stato correttamente sollevato questo tema, devo dire è già stato sollevato in commissione al Senato, ci sono state risposte, dico positive, ma comunque di apertura da parte dell'opposizione a trattare l'argomento. C'è la discussione se deve essere modificato o meno l'articolo 11 della Costituzione, quello che dice che l'Italia rifiuta la guerra. Anche qua ci sono ovviamente pareri diversi, ma mi pare che importante sia quello di accettare l'idea che queste operazioni hanno una specificità che va affrontata in quanto tale. Voglio dire, l'altro tema che si è sollevato in questi giorni, quello dei lince che sono bloccati, adesso 3-11, non mi pare grande problema. Il problema però è che se sei in codice di pace hai avuto un incidente stradale, quindi da questo punto di vista si procede come se si fosse avuto un incidente con un'altra vettura. Questo proprio per dire l'inadeguatezza anche di alcune situazioni, oppure il processo che in corso per la battaglia ai ponti di Nassiriya. Ecco, mi pare che sia un tema da affrontare, forse anche da affrontare con maggior realismo e anche abbandonando un po' di ipocrisia su questo argomento. Capisco che le missioni di pace nell'immaginario collettivo sono missioni in cui i nostri soldati aiutano le vecchiette a attraversare la strada e danno le caramelle ai bambini, ma non è esattamente così, non è mai stato così, diciamolo obiettivamente. Oggi si misura di più della zona dove noi operiamo aderato o meno, ma queste missioni hanno sempre avuto un riflesso di guerra dei tempi della famosa missione in Libano del generale Angioni, e famosi attacchi ai Marines, ai soldati francesi, con più di 200 morti in ogni caso. Quindi mi pare che ci è voluto tempo, ma anche in questo caso abbiamo tolto un po' di questo velo di ipocrisia, affrontiamo il problema come deve essere, decidiamo assieme. Io credo questo sia un grosso lavoro che deve fare il Parlamento, il Governo, assieme, in maniera da avere il più vasto consenso. È un tema che riguarda tutti, non il Governo o l'opposizione. Sì, sì, sono d'accordo. Bisognerebbe tentare di evitare l'insorgere di nuove polemiche, come purtroppo avviene abitualmente. Eccoci qua tornati, perdonate ma stavo un secondo guardando le agenzie, ci sono notizie, informazioni di una nuova operazione militare nel sud verso Helmand. Helmand è uno dei punti in cui si è riarticolata la strategia di cui si parlava con Nativi all'inizio della trasmissione, una lunga valata di centinaia di chilometri nel sud del paese. Il sud e l'est sono tradizionalmente gli insediamenti dove i talebani sono più forti, la valata di Helmand era classicamente un posto dove la presenza militare americana e alleata non c'era, e quindi era diventato un luogo free, libero all'estensione e al del consenso nei villaggi da parte dei talebani e organizzazioni affiliate. Ed è su questa area che nei mesi scorsi i Marines e il contingente americano hanno lanciato una grande operazione vecchio stile, cioè sul terreno con gli elicotteri che sbarcavano i contingenti militari e non facevano il colpisci, distruggi e fuggi, e quindi molte vittime, molti caduti che però sono finalizzati a una ripresa di controllo del territorio, dopo che negli anni fino all'inizio di quest'anno gli americani avevano finalizzato tutta la strategia e il contingente alleato invece a puntare sulla crescita dell'esercito e della polizia afghana, polizia afghana che sta sulle 80.000 unità, l'esercito che sta sui 130.000, ora si parla quasi di raddoppiare i contingenti, ma i tempi per formare contingenti affidabili sono molto lunghi. Nel frattempo una delle strategie per dare più forza al governo legittimo presidente Karzai e a chi sarà il suo successore, se Karzai oppure no lo vedremo dopo il 20 di agosto, è stato quello di affrettare i tempi rispetto alla costituzione della parte ordinaria, che hanno bisogno di tempi lunghi, hanno bisogno poi di migliaia di consiglieri militari che attualmente verrebbero distratti dall'impegno di invece affrontare i talebani, e quindi si è tentato di mettere in piedi qualcosa di analogo a quello che è servito molto in Iraq per fermare la crescita del consenso che c'era soprattutto in ambito sunnita al terrorismo, e cioè al tentativo di arruolare direttamente sotto l'egida del governo dell'autorità legittima bande armate tribali, regolarizzandole per così dire sotto il controllo dei capi della polizia locale, dei capi di distretto, cioè una strategia che mira ad avere il consenso dei rappresentanti tradizionali etnici in Afghanistan. Sembrava all'inizio una strategia promettente dopo il 2001 al 2003-2004, poi è una strategia che ha compiuto molti passi all'indietro nel 2005-2006, quando i talebani hanno ripreso il controllo e il consenso militarmente ma anche politicamente ed etnicamente di larga parte del paese, e adesso si sta tentando di tornare a questo tipo di strategia. Nel mentre però americani e alleati combattono sul campo, si fanno vedere nei villaggi per tentare di riportare nei villaggi le condizioni di sicurezza. Allora cominciamo con alcuni di voi. Alberto da Perugia, prego Alberto. Buongiorno Oscar. Senta, ha detto questa storia della nostra guerra in Afghanistan, ormai l'ha detto anche Nativi, è guerra. Un pezzetto al giorno, un pezzetto al giorno, i nostri politici ci hanno portato a Può abbassare la radio perché già il collegamento è quello che è, ma sentiamo per di più anche l'amplificazione. Quindi abbassi un secondo la radio e la prego proprio di parlare in maniera più forte. I nostri politici ci hanno portato piano piano, un pezzetto al giorno, a fare la guerra. Così i generali giocheranno un po' anche loro. Venisse alla televisione il Berlusconi, il ministro La Russa, lo dicessero apertamente al popolo: facciamo la guerra, così vedremo arrivare un altro po' di bare incartate con la bandiera. Grazie ad Alberto. Margherita da Milano, prego Margherita. Buona giornata a tutti. Beh, naturalmente interventi come l'ultimo sono fatti per farmi arrabbiare. Ho ascoltato con un po' di fastidio, devo confessarlo, l'intervento del ministro di cui adesso mi sfugge il nome. No, sottosegretario Mantica, perché fastidio? Sì. Scusi. Perché ma un po' di fastidio perché per la prudenza con la quale ha poi in effetti espresso un concetto che modestamente è anche il mio, ma che credo sia anche l'unico che si possa avere, che quando si va in guerra si fa la guerra, quando si va su un territorio di guerra ci si dà i mezzi, ci si dà le leggi, ci si dà le... per poter fare questa guerra, per poterla fare bene e per vincerla. Cioè in guerra ci sono delle vittime, queste ci sono sempre state, purtroppo è un fatto che si può evitare solamente in parte. Io ricordo l'episodio dell'Iraq, quando il governo Prodi ai suoi primissimi passi ha fatto la Maina Bandiera in Iraq, fatto che all'epoca mi suscitò, devo confessarlo, una certa vergogna, perché non vogliamo convincerci noi e una certa politica che la guerra che facciamo insisto su questo concetto, in Afghanistan, non possiamo non farla anche noi come italiani, e che è un fatto che ci riguarda, che riguarda tutti noi, che riguarda le nostre città, che riguarda la nostra storia, anche di noi italiani e di noi europei come concetto più largo. Perché continuiamo con questa ipocrisia che vuole chiamare guerra azione di pace? Certo che poi la finalità sia quella, ma da quando in qua non si vuole concepire che la pace in determinate circostanze si conquista con la guerra? Mi dispiace dover dire queste cose, io ho 72 anni di guerra, non vorrei più parlare effettivamente, sarei anche stanca, però nel mondo intero ci sono le guerre e le guerre si devono combattere con i giusti mezzi, e dobbiamo smetterla con questa ipocrisia del dentro. Grazie fuori, Margherita, è stato chiarissimo quello che ha detto. Naturalmente non tocca a me difendere il sottosegretario, naturalmente noi abbiamo una Costituzione che prevede l'articolo 11 che l'Italia partecipa a degli sforzi internazionali coordinati, accetta in questo appunto la limitazione della sua sovranità, perché ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi la delicatezza per i membri di governo in carica di qualunque colore è quello di dover interpretare, alla luce di come si è modificato l'ambiente internazionale, si è modificato molto, per esempio dopo l'11 settembre del 2001, rimanendo in questo dettato costituzionale, di dover interpretare in questo dettato e nei tempi cambiati, nelle forme internazionali che la comunità si è data mondiale per intervenire su punti delicati come l'Afghanistan, come l'Iraq, come la lotta al terrorismo, e tentare su questo oltretutto di tenere conto che gli italiani su questo hanno sempre avuto e continuano ad avere, come si vede dalle telefonate, punti di vista non solo diversi ma proprio confliggenti e lidenti, per cui c'è chi dice questi nuovi contesti internazionali di azioni militari ci devono vedere, se accettiamo di partecipare, responsabili in prima fila con mezzi commisurati alle nostre possibilità ovviamente e alla sicurezza dei nostri uomini, e altri che dicono no, per il solo fatto di farlo noi violiamo la Costituzione, e su questo infinite polemiche. Sentiamo ancora Luciano da Roma, che dice Luciano? Oscar, complimenti per la trasmissione. Ma in pratica è stato già detto quello che desideravo dire. Io credo che sia stata mascherata però a suo tempo, e non credo che si può dire di essere di parte se si afferma che quella parte politica a suo tempo diciamo in qualche maniera nascose il fatto che la missione di pace che era una missione di pace proprio in relazione al fatto che uno degli articoli della Costituzione diceva che non potevamo e che non volevamo più entrare in guerra. E io credo che questa sia parte di una responsabilità politica che quantomeno bisognerebbe riconoscere, poi dopo di che, del perché e del per come, adesso ci siamo e siamo in un giro molto più grande di alleanze politiche, è chiaro che inevitabilmente non ci possiamo più tirare indietro, ma che sia stata però nascosta in qualche maniera, credo, la vera motivazione, se no in quel momento forse il Presidente della Repubblica di quel mentre non avrebbe mai dato il benestare, credo che sia un fatto acclarato. Non so voi che cosa ne pensate, e complimenti comunque per la trasmissione e per la sua precisione. Grazie Luciano, no per carità, io tento solo di dire, ho ricevuto diversi messaggi, adesso dicono che non durerò molto a questa radio, non ho capito se è un apprezzamento o se è una minaccia, ma non credo proprio, comunque non facciamola così grave, tentiamo solo di capire. Nativi, torniamo a un punto, perché pochi in realtà poi sono esperti di come funzionano davvero le cose lì, e allora forse bisogna tentare anche di spiegarlo quando si hanno le capacità e si conoscono i mezzi degli uomini. Per esempio, con l'attuale presenza dei nostri mangusta, dei nostri elicotteri armati che servono appunto per dare supporto impegnato a fuoco, a chi è impegnato a terra, è stato concepito per questo, quel tipo di elicottero. Ecco, con la presenza dei nostri numeri attuali di mangusti in Afghanistan, che cosa significa concretamente, vista l'estensione dell'Afghanistan, da quando qualcuno degli italiani o come di tutto il contingente, noi dobbiamo fare l'apporto a fuoco, il supporto a fuoco dove ci viene richiesto, ma cosa può voler dire dal momento della richiesta, cioè quando ci sono uomini impegnati sotto il fuoco nemico che hanno bisogno del supporto aereo, fino a che arriva, visto i numeri scarsi presenti, quanto può passare, che cosa può voler dire questo? Vuol dire in pratica poter rimanere sotto il fuoco a combattere per mezz'ora o un'ora, perché questi sono i tempi, non c'è niente da fare, oltretutto non è che uno può prendere la strada diretta, l'elicottero ha la velocità che ha, le montagne in Afghanistan, l'orografia è di un certo tipo, i talebani ogni tanto sparano, quindi hanno anche centrato i nostri mangusta che per fortuna sono abbastanza ben protetti, e avendone sei più di tanto non si può fare. Se si va avanti a battagliare per mezz'ora o un'ora, il rischio di farsi male è piuttosto elevato. Se qualcuno usa quello che è il nostro jolly, cioè la differenza fondamentale che abbiamo rispetto ai talebani è che abbiamo il dominio assoluto dell'area, e allora sfruttiamolo in ogni maniera, mandando i mezzi necessari in quantità e qualità, perché se io invece ho un aeroplano che magari è già in volo, quindi vuol dire averne parecchi per averne qualcuno in volo, lo posso indirizzare in questione di minuti, ho il supporto aereo richiesto, se no uso l'artiglieria, perché noi attualmente abbiamo solamente dei mortai da 120, ottimi, posso fare delle fire base, ovvero sia delle postazioni che in un raggio di alcuni chilometri mi coprono, però raggio limitato, arma a tiro indiretto, mi servono armi a tiro diretto, ovvero sia cannoni su blindo che mando insieme ai soldati che combattono, per cui invece di aspettare supporto aereo un po' di supporto se lo fanno da soli, artiglieria, altri aeroplani, altri elicotteri, questo serve, non è che ci voglia molto. Poi c'è anche la questione dei Predator. I Predator potrebbero dare una mano se fossero armati. I Predator sono velivoli senza pilota che circuitano per tempi molto lunghi, lo dico per chi non è esperto, ovviamente circuitano per tempi molto lunghi a velocità abbastanza bassa su parti molto ampie del territorio, fanno rilevamenti e quindi ispezioni dall'alto delle situazioni tattiche e strategiche, e sono anche armati, e anche quelli italiani, diciamolo, potrebbero ecco. Potrebbero, ma non si deve dire, anzi assolutamente questa abbiamo fatto una cosa di lesa maestà, perché abbiamo detto che i nostri Predator, quelli che sono appena tornati dagli Stati Uniti a far la revisione eccetera eccetera, sono identici a quelli americani, possono essere armati, non che possano fare un granché, ci si mette due piccoli missili Hellfire, però intanto che vedono se c'è qualche problema sparano, invece attualmente vedono e se c'è qualche problema devono chiamare qualcun altro che prima o poi arriverà a risolvere il problema, magari quando ormai si è incancrenito. Quindi avere la possibilità di intervenire, non farlo, è grave. Certo, puoi chiedere aiuto agli alleati, come facciamo regolarmente, però siccome anche loro hanno da fare, il problema è che non è detto che rispondano tempestivamente, quei mezzi aerei per dare supporto siano immediatamente disponibili, che poi magari devono venire da fuori. Perciò qualunque comandante sa che è bene avere un toolbox, ovvero sia una cassetta degli attrezzi con tutti gli strumenti che ti possono servire, che non è detto che li impiegherai, ma se ti servono ce li hai, e ce li hai, come dicono i comandanti, alla mano, e sono i tuoi. Quindi se tu chiami perché hai bisogno di aiuto, i tuoi vengono e vengono impiegati subito. Alberto Negri, invece io ti giro direttamente la domanda che è prevalente in tutta la raffica di SMS che è arrivata negli ultimi minuti, cioè perché ci dovrebbe riguardare ancora questa guerra, ci chiede per esempio Lelio, visto che voi stessi state raccontando che solo nell'ultimo anno e mezzo che c'è stata un'escalation ulteriore, che le cose stanno andando peggio. Ecco, dal tuo punto di vista di osservatore attento alla complessità del problema e all'area, al Pakistan eccetera eccetera, perché ci dovrebbe riguardare ancora? Ma innanzitutto il mio punto di vista non è tanto da osservatore, ma da uno che ci va da 25 anni in questi posti e che ha visto quasi tutte le guerre dell'ultimo quarto di secolo. Quindi penso di poter dire qualche cosa su quello che accade lì politicamente e quello che accade fuori. Quello che accade fuori è molto semplice, signori. Quello che accade fuori è la disomogeneità molto chiara dentro all'Alleanza Atlantica. Qui noi stiamo parlando di questioni tecniche, artiglieria, cose, sì, tutto bene, tutto d'accordo, è certo che ci vogliono i mezzi tecnici, ma poi ci vuole una volontà politica. Voi sapete quanti militari tedeschi ci sono sul terreno in Afghanistan? 3.000. E sapete che cosa servono? A niente. A niente, perché hanno regole di ingaggio talmente severe che non possono neppure fare pattuglie se sono di notte. Non possono fare pattuglie se non sono seguite da un'ambulanza e da un staff medico. Non possono raccogliere o trasportare neppure un militare afghano ferito. Quindi capite che i numeri sulla carta, per esempio impegnati dalla NATO, sono molto disomogenei, perché disomogenei sono le regole di ingaggio di questo contingente. Perché ci riguarda questa guerra? Perché mette alla prova l'Alleanza Atlantica, che è intervenuta in base all'articolo 5 del suo trattato, che impone di intervenire per la difesa comune, e che questa difesa comune oggi avvenga in Afghanistan, cioè molto lontano dal territorio della NATO, è un'ulteriore prova che metterà a dura prova, scusate la ripetizione, questa alleanza. Quindi, in poche parole, la NATO in Afghanistan si gioca buona parte non solo del suo prestigio, ma anche della sua ragion d'essere proprio. E anche il suo intervento, voglio dire, più importante e più rilevante fuori poi dalla missione iniziale del trattato. Eccoci qui tornati in studio, stiamo parlando dell'Afghanistan e nell'avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 20 agosto, della strategia militare e politica dell'alleanza NATO e degli Stati Uniti impegnata molto più pesantemente sul campo nel tentativo di contendere la ripresa di controllo da parte dei talebani di parte crescente del territorio, della rappresentanza etnica, che era molto preoccupante all'inizio di quest'anno. Quindi cambio di strategia, più uomini sul campo, più caduti, polemiche inevitabili nelle diverse opinioni pubbliche, nei diversi paesi della NATO, sull'impegno crescente di azioni sempre più evidentemente militari e di guerra, e non solo di peacekeeping, e sulla adeguatezza degli strumenti e delle regole di ingaggio dei diversi contingenti della NATO. In Italia c'è stata la polemica sul codice penale di pace, cambiamolo oppure no, cambiamo le regole di ingaggio, impegniamo di più gli strumenti che abbiamo già. Su questo abbiamo Piero Fassino in linea del PD, lo ringrazio molto per essersi reso disponibile, e la domanda è molto semplice a Piero Fassino, segue da protagonista la politica internazionale italiana da anni. Dal suo punto di vista, queste elezioni del 20 di agosto e dal punto di vista del contributo che noi diamo militarmente e politicamente alla stabilizzazione, possiamo per così dire considerare che il problema afghano continuerà a essere un problema con un'impostazione di bipartisanship condivisa in Italia, oppure c'è qualche cosa che non lo condivide su quello che il governo e il nostro contingente militare italiano sta attualmente facendo in questo scenario che è difficile, molto più impegnativo, ecco, rispetto all'inizio solo dell'anno? Lei che dice? Ma è dubbio che le elezioni del 20 di agosto sono un passaggio cruciale, e tutti avvertiamo la delicatezza di questo passaggio, perché da come le elezioni si svolgeranno, dall'esito che hanno, dalla loro regolarità, dipende la possibilità di consolidare la transizione democratica in Afghanistan. E si comprende anche quindi che i talebani abbiano tentato e tentino, diciamo, di influenzare il voto con l'offensiva militare che abbiamo visto in questi ultimi mesi diventata via via più virulenta. Io credo che in Afghanistan noi dobbiamo mixare sempre di più un'azione militare di contenimento dell'offensiva talebana per impedire che riprendano il potere con un'azione di ricostruzione politico, istituzionale ed economico che aiuti l'Afghanistan a darsi delle strutture solide, sia dal punto di vista dello Stato, sia dal punto di vista della sua sicurezza, della sua difesa, e sia dal punto di vista economico. Sono prima di tutto i generali americani che più sono esposti e impegnati nella vicenda afghana a dirci che una soluzione militare da sola è illusoria. Serve lo strumento militare in quanto sia parte di una strategia politica più ampia, che accanto all'uso delle armi veda l'uso della politica, l'uso dell'economia, l'uso della diplomazia, l'uso di tutti gli strumenti che sono necessari per arrivare a una success strategy, cioè una strategia di successo, e non essere impantanati in una guerra infinita, credo che questo sia il punto. Su questo è evidente che è decisiva la coesione della comunità internazionale, e che quindi tutti i paesi che fin qui hanno concorso a questa vicenda continuino a profondere il loro impegno, Italia compresa. Quindi non è in discussione, per quello che ci riguarda, la partecipazione dell'Italia all'impegno in Afghanistan, che è stato deciso dall'ONU e vede la partecipazione di tutti i paesi dell'Unione Europea. Però è evidente che si tratta di verificare l'efficacia della strategia fin qui seguita e vedere dove bisogna intervenire per renderla più efficace. Grazie a Fassino. Sottosegretario Mantica, da questo punto di vista ci sarà una valutazione politica da fare all'indomani del voto. Io informo chi ci ascolta che il voto sarà lungo, i risultati del voto noi li avremo un mese dopo il voto, quasi tra il 17 e il 19 di settembre, perché voi dovete immaginare che l'orografia dell'Afghanistan e la sicurezza in cui stanno le elezioni è un problema molto complesso, e quindi delle molte migliaia in teoria di seggi che sono previsti dovranno poi dare le schede a 7-8 mila centri di elaborazione, passeranno settimane prima di capire se la Costituzione, che prevede il 50,1% dei voti per la vittoria di un candidato, sarà soddisfatta al primo turno, oppure se bisognerà procedere a un ballottaggio. Ma detto questo, quando si tratterà di esaminare il voto politico dell'Afghanistan, lei pensa che lo si fa attraverso le strutture della NATO, quindi alla luce dell'alleanza che è presente sul terreno, oppure calibrando poi direttamente tra maggiori paesi, con gli Stati Uniti, anche all'interno dell'Unione Europea, una strategia politicamente più significativa? Perché abbiamo esaminato la parte militare, però la realtà è che per dare un futuro di stabilizzazione a un paese che è tornato a coltivare più oppio che grano, perché conviene di più naturalmente localmente e così via, c'è bisogno forse anche un po' di chiarezza politica tra i nostri maggiori partner. Lei non trova? Ma guardi, io ho ascoltato con attenzione anche molti interventi più o meno polemici degli ascoltatori. Credo che tutti abbiano perso di vista, non certo i suoi ospiti, e queste sono tutte operazioni militari che non portano a vincere militarmente, perché l'obiettivo di tutte queste operazioni afghane comprese è un obiettivo politico, cioè noi siamo lì per ristabilire le condizioni di una convivenza civile fra le varie etnie afghane in un paese avviato un processo di modernizzazione che abbia delle forme, diciamo, di democrazia. Questa è la grande vittoria che si ottiene con le truppe. Quindi è chiaro che è una valutazione innanzitutto politica, i militari sono lo strumento. Se al 20 agosto, 20 settembre, a fine settembre, io credo che saranno due valutazioni. Una su come sono avvenute le elezioni, cioè se si è votato equamente in tutte le regioni dell'Afghanistan, se si è votato solo nelle zone tagiche, nelle zone uzbeche, nelle zone azzara, cioè diciamo quelle non di etnia pashtun, quelle più vicine in qualche modo ai talebani, e quindi se è un voto che ha un valore, voglio dire, rappresentativo di tutte le realtà, o se invece è una parte del paese, come si è svolto questo voto, in quale clima, perché è chiaro che per i talebani già il fatto che si svolgano elezioni è una sconfitta, perché in qualche modo noi stiamo facendo apparire l'Afghanistan un paese quasi normale, che va addirittura a votare ogni 5 anni regolarmente. Poi si tratterà di valutare il risultato del voto. Tutti davano per scontato Karzai, voglio dire, pare che ci sia questa alternativa Abdallah, l'ex ministro degli esteri, forse lo porterà al ballottaggio, anche questo sarà da interpretare per capire se c'è poi una vita, come dire, politica, democratica, e quindi con maggioranza e opposizione anche in Afghanistan. Ma questo è, ripeto e torno a dire, l'obiettivo è poi, una volta ottenuto questo risultato, di capire che cosa si può fare per il signor Karzai, il signor Abdallah, vinca il migliore evidentemente, per portare questo paese sulla strada di un paese moderato. E quando si parla di exit strategy, altre cose che spesso io voglio ricordare, non è la strategia di uscita, cioè domattina chiudiamo la porta e andiamo a casa, è l'uscita, è la strategia per realizzare gli obiettivi e uscire quindi da quello che era l'impegno che noi ci eravamo assunto. E dall'Afghanistan però devo dire con grande serietà, credo chiunque vinca e comunque avvengano le cose, proprio per realizzare gli obiettivi che abbiamo detto e che anche sono stati detti nella trasmissione, credo che qualche anno bisognerà ancora pensare di essere in qualche modo presenti in Afghanistan come comunità internazionale. Credo anch'io che la sincerità, ecco, di Mantica sia da apprezzare. Io non so se sia opportuno, come ha fatto il capo di Stato Maggiore britannico entrante, parlare addirittura di un orizzonte di 40 anni, questo non lo può dire nessuno, ma che qualche anno ci voglia, e questo mi sembra realistico, e bisogna dirlo alle opinioni pubbliche usando la giusta serenità, il giusto equilibrio, ma anche la giusta fermezza. C'è un aspetto tra i tanti che non abbiamo toccato: naturalmente le vittime civili sono cresciute come sono cresciute quelle militari, purtroppo le vittime afghane. Secondo le Nazioni Unite, nella prima metà di questo anno, fino al 30 giugno, sono morti più di 1000 civili, cioè 1013 civili, e nello stesso periodo del 2008 erano stati 818, nello stesso periodo del 2007 684, quindi stiamo parlando di un'escalation, sicuramente sono cifre sottostimate queste. Quello che però nessuno tende a dirvi quanti sono i talebani che vengono eliminati dai contingenti militari, perché su questo bisogna essere un po', per così dire, aerei, bisogna fare finta di niente. Nativi, una domanda che viene da molti sms e da telefonate come quelle di Luca da Parma e Paolo da Milano, che non avremo il tempo di passare, mi scuso, e in sintesi questa: ma com'è possibile che contingenti così dotati di armi raffinate, tecnologie eccetera eccetera, di fronte a talebani con armi leggere, poi alla fine non ne vengono a capo? Beh, intanto un primo dato di fatto è che per i talebani subire un morto, non, o 10 o 100 o 1000, non è questione che provoca una crisi di governo e interrogazioni parlamentari. Tenete conto che secondo dati inglesi, nella sola provincia di Helmand, gli inglesi in tutto hanno subito circa 185-190 morti e ne hanno inflitti circa 7000. Questo è il rapporto. Però c'è un altro dato numerico da contare. Quando lei ha dato l'elenco delle forze, non so se ha notato che il totale è inferiore al numero dei tutori dell'ordine che abbiamo noi in Italia. Sì. Allora, siccome noi in Italia abbiamo circa 300.000 tutori dell'ordine, ci sono comunque quartieri di alcune città dove non è prudente andare la sera, immaginatevi com'è possibile mantenere il controllo dell'Afghanistan con un numero di militari, contando NATO, americani e afghani, che è inferiore. E l'Afghanistan è molto più grande e con un'orografia e un sistema viario che Alberto Negri può raccontarvi abbastanza in maniera divertente. Perciò è impossibile sperare di avere il controllo del territorio afghano. Tra l'altro, non altro, l'ho sempre detto, noi non tiriamo ad avere il controllo del territorio afghano direttamente. Però con meno di 300.000 uomini, anche se hai le armi sofisticate, più sofisticate del mondo, in Afghanistan non ce la fai a controllarlo, anche perché gli altri subire perdite significative non è, è un problema. Nativi, c'è un aspetto che non abbiamo ancora toccato abbastanza, riguarda appunto il Pakistan, riguarda l'ISI, cioè l'ISI, i servizi segreti pakistani, che da anni sono, non si riesce mai a capire quanto stanno in una politica, diciamo così, tutta pakistana, quanti stanno vicini ad Al Qaeda e quanto addirittura ne alimentino alcuni filoni filo-pakistani e quanto invece cooperino con l'Occidente. Allora, da questo punto di vista, l'eliminazione di Beitullah Mehsud, il capo di Al Qaeda, dei Taliban pakistani, diciamo così, che sarebbe avvenuta la settimana scorsa, a parte il fatto è avvenuta o meno secondo lei, perché naturalmente non si capisce, ma vuol dire che i pakistani collaborano oppure no? Dunque, i pakistani collaborano molto di più, anche perché hanno rischiato grosso, finalmente l'hanno capita, e infatti se il generale McChrystal dice che i talebani si stanno spostando verso ovest e verso nord, è perché i pakistani li stanno scacciando dal Pakistan, hanno ripreso la valle dello Swat, non solo, vanno ancora più avanti e vanno anche a colpire per le spicce. Quindi questo è un dato sicuramente positivo, credo che sia la volta in cui i pakistani collaborano di più, perché percepiscono ormai i talebani come un pericolo per loro, quindi anche l'intelligence pakistana che collabora molto di più. E poi bisogna vedere chi è che collabora e non collabora, come ha detto giustamente, in qualche caso collaborano anche efficacemente, come avvengono comunque le cose da quelle parti, perché sono, vogliamo dire, piuttosto fluide, ecco. Sì, perché io faccio poi notare che il presunto capo dei Taliban filo pakistani, forse eliminato in un attacco da un drone aereo la settimana scorsa, era poi l'organizzatore dell'assassinio dell'ex premier pakistano Benazir Bhutto, che come noto in Pakistan a molti non è poi in definitiva dispiaciuto. La realtà complessa di quei paesi che però ci vede impegnati militarmente e politicamente in una missione di lungo periodo. Abbiamo tentato di parlarne un po' fuori dai denti, quello sia della versione di Oscar. Io ringrazio i nostri ospiti di oggi e ringrazio naturalmente regia Giorgio Matè e in redazione Alessandro Marco Tulli, senza di cui non andremo io in onda. La linea al giornale radio e appuntamento a domani. Mm.